Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meli. Sei rimasto sospeso sopra il tetto dell'edificio U9 dell'Università di Milano Bicocca. Parliamo di un piccolo, ma non piccolissimo, dirigibile bianco con una bella scritta in evidenza: scienze ambientali. Ha il compito, questo dirigibile, di rilevare tutta una serie di dati utili a studiare il comportamento dello smog nel capoluogo lombardo, che, come sapete, è una delle città più colpite da questa piaga, anche per via delle caratteristiche, insomma, climatiche intrinseche, che sono tipiche di buona parte della pianura padana. Ma capiamo meglio, insomma, di che cosa si tratta con l'aiuto di Ezio Bolzacchini, che è professore di chimica dell'ambiente appunto all'Università Milano Bicocca, che insieme al collega Giovanni Zambon, docente di acustica ambientale, coordina questo progetto. Buonasera Bolzacchini. Buonasera a voi. Allora, ci descriva un po' intanto questo dirigibile. Intanto ci sono gli zeppeli, che hanno delle macchine giganteschi, questo è un po' più piccolino. No, però non è così piccolo. È 14 metri di lunghezza, ha un diametro di 5 metri, quindi riesce a portare un carico utile di strumenti sui 50 kg, 40-50 kg. Ecco, che strumenti porta con sé? Porta una serie di strumentazioni, soprattutto per quanto riguarda la determinazione delle particelle in atmosfera e per il rumore, particolato. Particolato atmosferico in modo molto marcato, e poi strumenti per la determinazione dell'inquinamento acustico. Cioè, quindi c'è un fonografo, c'è questo microfono, questi rilevatori di particolato, ma anche tutti poi tipici dati meteo raccogliete, velocità del vento, umidità. C'è anche una stazione meteo completa, tutto ovviamente miniaturizzato per evitare un peso eccessivo. Tutto il carico utile che noi abbiamo in questa fase complessivamente non supera i 20 kg, quindi è soprattutto il peso è determinato dalle batterie per alimentare la strumentazione, non quanto la strumentazione stessa, perché è stata progettata e miniaturizzata appositamente per questi studi. Ecco, appunto, veniamo all'oggetto della ricerca. Io ho parlato un po' genericamente di studiare lo smog. Cosa studierete più di preciso? Allora, serve per studiare il particolato atmosferico lungo la verticale. Ci sono pochissimi studi da questo punto di vista. In Milano si conosce molto bene la sua distribuzione a terra, ma non lungo la verticale. E questi studi servono proprio per questo, ovvero, per esempio, per determinare le concentrazioni del particolato atmosferico PM10, 2,5 e via di seguito sopra e sotto lo strato di inversione, che è lo strato che schiaccia il suolo, l'inquinante. Ovviamente anche questo è rumore. Ecco, parlava della cosiddetta inversione termica, cioè il fatto che a volte normalmente la temperatura dovrebbe diminuire salendo, prendendo quota. In realtà capita a volte che succede al contrario, che aumenti prendendo quota e poi ricomincia a diminuire. Ecco, questo tra l'altro è un fenomeno che ha anche a che fare con la nebbia, o sbaglio? Sì, è un fenomeno prettamente meteorologico determinato dall'orografia della nostra zona, e questo fa in modo che nel periodo invernale, non sempre ovviamente, ma quando abbiamo alta stabilità, molto freddo, si instaura questo sistema di aria tale per cui lo strato di inversione non raggiunge nel suo massimo di altezza i 300 metri, verso le 12, le 14 del pomeriggio, al mattino è sui 70 metri. Tutto quello che noi produciamo rimane in questo strato. Rimane sconfinato in questo strato, quindi si capisce che per anche riuscire a fare delle previsioni, per esempio, o poter fare dei modelli, bisogna capire bene come funzionano queste cose, ed è lo scopo della vostra ricerca. Senta, perché un dirigibile e non magari uno dei droni di cui si parla tanto? Ma il dirigibile prima di tutto non ha motore, visto che è alimentato ad elio, quindi si può alzare lungo la verticale. Ovviamente è collegato a un cavo progettato appositamente, questo cavo è stato studiato, sì, insomma, non, e progettato, non si stacca e non se ne va in giro. A voi piacerebbe poterlo mandare in giro, ma mi ha spiegato che non si può. Non si può, assolutamente no, perché ci sono dei permessi. Sopra il centro di Milano non si può, per esempio, no, queste cose. Assolutamente no. Quando noi operiamo al mattino, quando iniziamo a alzare il pallone, siamo in contatto diretto con l'autore di linate, fin quando non abbiamo finito questo contatto resta aperto. Quindi diciamo un dirigibile perché porta carichi più pesanti, consuma meno energia volando? Non solo, ma a differenza di altri tipi di veicoli non ha motore, quindi non avendo motore non ci sono le emissioni, non c'è combustione, non ci sono le emissioni che possono influenzare i campionamenti che stiamo facendo. E poi perché un dirigibile di queste dimensioni, come dicevo prima, ha un carico utile elevato, quindi permette eventualmente di caricare ulteriore strumentazione, eccetera, quindi di eseguire esperimenti sofisticati. E anche di lunga durata, perché appunto poi rimane lì. Esattamente così. Senta, ricordiamolo, c'è a bordo, lo dicevamo, anche un fonografo, e quindi anche lì il fatto che non faccia rumore senz'altro è utile. Cosa misurerete con questo fonografo sostanzialmente? Inquinamento acustico lungo e verticale è molto poco noto. Su Milano non ci sono praticamente studi, e questo serve proprio per determinare fino a che altezza si riesce a sentire un rumore, con quale frequenza, via di seguito. E via dicendo. Va bene, allora grazie Ezio Bolzacchini. Arrivederci lei. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.